Ad alta voce, Tommaso Ragno legge Il Monaco di Matthew Lewis, nella versione di Antonin Artaud, traduzione di Ginevra Bompiani e Giorgio Agamben. Il Monaco. La campana del convento suonava appena da 5 minuti e già la chiesa dei Cappuccini era aggremita di gente. Ce n'era dappertutto, perfino sulle ali dei cherubini. San Francesco e San Mauro portavano ciascuno il loro carico d'uomini. In mezzo alla calca e all'irritazione generale, due donne, una vecchia e l'altra giovane, si facevano strada a colpi di gomito incuranti delle violente proteste della gente. Erano riusciti a spingersi fino ai piedi del pulpito a furia di insistenze e di ostinazione, quando la vecchia, fermandosi di botto, alzò la voce. «Buon Dio!» strillò, volgendo intorno lo sguardo. «Che caldo! Ho le gambe che traballano. Possibile che nessuno tra questa gente civile abbia la galanteria di scomodarsi per offrirci almeno una sedia?» Questo esplicito invito fece voltare due cavalieri, tutti e due giovani e riccamente vestiti, che sedevano su degli sgabelli poco lontani dal pulpito. La vecchia si trovava di fronte a loro, chioma rossa e occhio infossato, arcigna e barcollante. Si rimersero nella conversazione, ma a quel momento la giovane parlò e fu in quella folla densa e accaldata come uno zampillo d'acqua chiara nei giardini dell'Alcazar. «Vi prego, Leonella», diceva, «vi prego, torniamo subito a casa, non ne posso più. Il caldo mi soffoca e mi sento morire di paura in mezzo a questo frastuono». La singolare dolcezza con la quale erano state pronunciate queste parole ebbe un effetto decisivo sui due cavalieri. Interruppero di nuovo la loro conversazione, ma questa volta un'occhiata non sembrò sufficiente. Si alzarono quasi senza volerlo e si girarono verso la persona che aveva parlato. Subito li colpì l'eleganza e la delicatezza della sua figura e provarono un vivo desiderio di conoscere i suoi lineamenti. Ma furono delusi. Un velo spesso li nascondeva, rivelando però un collo miracolosamente sottile, bianco e dolce, ombreggiato dai capelli dorati che il contatto della folla aveva scomposto. Un rosario a grossi grani le circondava il polso sinistro. Portava un vestito bianco, molto lungo, che scopriva appena la punta di un piede minuscolo. La sua figura era voluttuosa e leggera e ciascuno dei suoi gesti metteva in valore la curva di un fianco degno della Venere dei Medici. Tale era la donna alla quale il più giovane dei due cavalieri offrì la sua sedia, il che obbligò l'altro a cedere il posto alla vecchia con la stessa sollecitudine. Questa si profuse in ringraziamenti e occhiate sottilmente eloquenti, ma accettò l'offerta senza altre cerimonie. La più giovane seguì il suo esempio e ringraziò con un semplice saluto della testa, colmo, a dire il vero, di grazia spontanea. Don Lorenzo, questo era il nome del cavaliere che le aveva ceduto il posto, le si accostò, ma aveva già mormorato all'orecchio dell'amico qualche parola rapida. Questi capì al volo e cercò di concentrare su di sé l'attenzione della vecchia. «Certamente siete nuova a Madrid?» domandò Lorenzo alla sua deliziosa compagna. «Simili grazie non possono passare inosservate, e se questa non fosse la vostra prima apparizione, certo la gelosia delle donne e l'adorazione degli uomini le avrebbero segnate già da un pezzo». Avendo così lanciato il suo madrigale, si inchinò in attesa di una risposta che, a giudicare dalle apparenze, non poteva non essere vivace e piena di garbo. Ma poiché la sua frase non era una domanda, ma un poemetto improvvisato al quale a rigore ci si poteva astenere dal rispondere, la fanciulla non aprì bocca. Lorenzo aspettò un poco e poi riprese: «Sbaglierei di molto affermando che siete forestiera a Madrid». La giovane esitò un istante. Si sentiva che le era penoso parlare, ma questa volta non c'era mezzo di sfuggire e a voce bassissima appena intelligibile, rispose: «No, signor». «E avete l'intenzione di restarci un po' di tempo?» Questa volta la risposta arrivò più rapida e anche più precisa. «Sì, signor. Sarei felice di poter contribuire a rendervene il soggiorno più gradevole. Sono molto conosciuto a Madrid e la mia famiglia gode di qualche credito a corte. Disponete di me, se vi sembra che possa esservi utile. Sarà un onore e un piacere. Questa volta ci siamo», pensò tra sé. «Non può rispondermi con un monosillabo. Dovrà ben decidersi a rivelare il tono della sua voce». Ma si sbagliava. Un semplice cenno del capo fu la sola risposta di cui la giovane degnò gratificarlo. Era evidente che non le piaceva conversare, ma quel silenzio doveva considerarsi una prova di orgoglio, di riserbo, di ostinazione o di idiozia. Questo non riusciva a stabilire. Lasciò quindi passare ancora qualche minuto, dopodiché tornò alla carica con nuovo ardore. «Certo, è perché siete forestiera e ancora poco abituata ai nostri costumi che continuate a portare il velo. Permettetemi di togliervelo». E tese la mano verso il tulle, ma la giovane lo fermò. «Non mi succede mai, signor, di togliermi il velo in pubblico». «E che male ci sarebbe, per favore?» esclamò vicino a lei con acredine la sua compagna. «Dove avete gli occhi per non esservi ancora accorta che tutte le signore hanno lasciato il loro per riguardo al luogo santo in cui ci troviamo? Siete la sola qui a nascondervi il viso, e dal momento che mostro il mio, non vedo come ci potrebbe essere al mondo un pudore che vi costringesse a coprire il vostro». «Ma, zia cara, non si usa in murcia», replicò dolcemente Antonia. «Lasciate la murcia ai suoi giardini, qui non siamo in provincia. Se c'è una città che dà il tono, è Madrid. E ci stiamo, e smettetela di rimbeccare». La ragazza tacque, ma non ostacolò più i tentativi di Lorenzo. Questi, forte dell'approvazione della zia, capì che poteva arrischiarsi a sollevare quel velo che lo esasperava col suo mistero. Lo scostò con un colpo solo, dolce e brusco, non senza un poco tremare. Il viso che apparve lo colpì come un incanto. Non si poteva dire che fosse bello secondo i canoni ordinari della bellezza, ma quell'incanto toccava direttamente il cuore ed era tutto raccolto in due occhi di un azzurro indicibile, liquido, chiaro, vibrante, esposto al sole. Facevano pensare al fulgore particolare dell'azzurro di certe vetrate nei giorni di gran vento. I lineamenti, uno per uno, erano lontani dalla perfezione, ma formavano un insieme adorabile. Poteva avere su per giù 15 anni. Un sorriso malizioso che le correva sul labbro annunciava in lei una vivacità che solo l'eccessiva timidezza tratteneva in boccio. I suoi occhi erano pieni di una meravigliosa tenerezza e ogni volta che incontravano per caso quelli di Lorenzo si chiudevano rapidamente. Lorenzo contemplava attonito l'incantevole creatura alla quale il destino lo aveva avvicinato, ma alla zia parve necessario fare l'apologia della ritrosia di Antonia. «È una bambina», disse, «che non ha visto niente del mondo. Ha vissuto fino ad ora rinchiusa nel suo vecchio castello della Murcia, vicino a una madre. Dio la conservi. Povera anima, non ha più buon senso di quel che ci vuole per portare il cucchiaio alla bocca. E pensare che è mia sorella, proprio mia sorella, sorella di padre e madre!» «Veramente non si è mai visto così poco buon senso», commentò Don Cristobal con placido stupore. «Strano, signor, ma verissimo come ve lo dico. E guardate però la fortuna che hanno certe persone. Un giovane gentiluomo, ma proprio un gran signore, non si è messo in testa che Elvira poteva avere delle pretese di bellezza. Quanto alle pretese, effettivamente ne aveva, ma per la bellezza, se avessi fatto per abbellirmi soltanto la metà dei suoi sforzi. Ma lasciamo andare. Come vi dicevo, signor, questo giovane si innamorò di lei e la sposò all'insaputa del padre. Riuscirono a tenere segreta la loro unione per 3 anni, ma alla fine la notizia arrivò alle orecchie del vecchio marchese, il quale, come potete immaginare, non ne fu precisamente entusiasta. Partì per Cordova immediatamente, deciso a sbarazzarsi di Elvira e a separarla da suo figlio, a costo di rapirla. Arrivò invece in tempo per vedere che gli era sfuggita, che aveva raggiunto il marito e si erano imbarcati insieme per le Indie. Ci riempì di ingiurie e di bestemmie, pareva che tutti i diavoli parlassero dalla sua bocca, fece gettare in prigione mio padre, il più probo e laborioso calzolaio di Cordova, ed ebbe anche la crudeltà di strapparci il bambino di mia sorella, allora di appena 2 anni, che nella precipitazione della fuga era stata costretta ad abbandonare. Immagino del resto che il poverino soffrì per mano sua tutte le sevizie possibili, perché ricevemmo poco dopo la notizia della sua morte. Bell'affare aveva fatto mia sorella, dopo essere rimasta 13 anni a rosolarsi nel clima torrido delle Indie. Ecco che improvvisamente le muore il marito e ce la vediamo tornare senza un tetto per sé e senza denaro per procurarselo. Antonia era allora piccolissima e lei non aveva avuto altri bambini. Trovò arrivando il suocero risposato, ma sempre nello stesso stato di esasperazione contro il conte. La sua seconda moglie gli aveva dato un figlio che è, ora mi dicono, uno splendido ragazzo. Il vecchio marchese rifiutò assolutamente di vedere mia sorella, ma le fece sapere che, a condizione di non sentire mai più parlare di lei, le avrebbe passato una piccola pensione permettendole di vivere in un castello che possedeva in Murcia. Questo castello era stato l'abitazione preferita del figlio maggiore, ma dopo la sua malaugurata partenza dalla Spagna, il vecchio marchese non voleva più saperne di quella residenza e la lasciava andare lentamente in rovina. Mia sorella si rassegnò ad accettare l'offerta del suocero e si ritirò in Murcia, dove è rimasta fino al mese scorso. «Ma per quale motivo è ora tornata a Madrid?» si informò don Lorenzo, che per l'interesse suscitato in lui da Antonia non osava perdere una sola delle digressioni della vecchia chiacchierona. «Ahimè, signor, poco tempo fa è morto il suocero e l'intendente attuale del castello si rifiuta di continuarle la pensione, per magra che fosse. Perciò viene a Madrid con l'intenzione di prendere a giudice il nuovo erede e di supplicarlo di non lasciarla morire di fame. Avevo consigliato a mia sorella di affidare la sua petizione ad Antonia. Un bel visetto fa sempre più effetto sul cuore di un uomo e la piccola rischiava di ottenere tutto quello che voleva. Signora, interruppe con impeto don Cristobal, ma se ci voleva un bel visetto, perché vostra sorella non ha pensato a servirsi dal vostro? Oh, signor Gesù, vi prego, risparmiatemi le vostre galanterie. No, ho saputo conservare fin qui la mia reputazione pura di ogni macchia e non sarà oggi che mi deciderò a rischiarla con tanta leggerezza. A questo punto, sentendo il terreno favorevole, la vecchia si decise a scoccare a don Cristobal un'occhiata bruciante e appassionata, ma siccome era orribilmente strabica, l'occhiata cadde su don Lorenzo, che prese per sé il complimento e rispose con un profondo saluto. «Posso sapere, disse, il nome del marchese?» «Il marchese della Citernas. Ma siamo amici intimi. Attualmente non è a Madrid, ma l'aspettiamo da un giorno all'altro. È il migliore, il più cortese degli amici, e se la gentile Antonia mi autorizza a essere il suo avvocato presso di lui, mi vanto di farle vincere la causa.» Antonia alzò verso di lui i suoi occhi azzurri e lo ringraziò della proposta con uno sguardo pieno di eloquente riserbo. Tuttavia non aprì bocca. Leonella, per parte sua, manifestò molto più clamorosamente la sua soddisfazione. Considerava suo dovere parlare per due, e questo dovere lo compiva senza difficoltà, poiché era raro che le mancassero le parole. «Ma vi prego, signor», continuò rivolgendosi a don Cristobal, «perché c'è tanta gente oggi in questa cattedrale? È possibile che non sappiate ancora che Ambrosio, il priore del convento, pronuncia qui la sua predica tutti i giovedì. È l'uomo del giorno. Tutta Madrid vibra delle sue lodi. È solo la sua terza predica, ma tutti quelli che l'hanno sentito sono così entusiasti della sua eloquenza che è altrettanto difficile procurarsi dei posti in chiesa che alla prima di una nuova commedia. Troverete il suo nome su tutte le bocche. Questo monaco sembra avere affascinato tutti gli abitanti e io, che non ho ancora assistito alle sue prediche, sono sorpreso del delirio che suscita. Giovani e vecchi, uomini e donne, è un'adorazione generale e senza precedenti. I grandi di Spagna lo caricano di regali, le loro mogli rifiutano qualsiasi altro confessore e non è conosciuto per tutta la città che sotto il nome de l'uomo di Dio. Ma la sua origine, signor, è degna di una fama così straordinaria? Non saprei dirvelo con esattezza. Le voci più misteriose e più romanzesche corrono sul suo conto. Fu trovato, a quanto pare, da bambino, alla porta del convento, incapace di dare il minimo indizio sui suoi genitori. Nessuno si è mai presentato per reclamarlo e per permettere di chiarire il mistero della sua nascita. Si dice che la sua scienza sia inesauribile quanto insinuante la sua eloquenza. Che si sappia, non ha mai trasgredito ad alcuna regola dell'ordine e il censore più puntiglioso non potrebbe scoprire la più piccola macchia alla sua reputazione. Tra l'altro, ha fama di osservare così rigidamente il voto di castità da essere assolutamente incapace di distinguere la differenza tra un uomo e una donna. La gente del popolo lo considera un santo. Un santo? Esclamò Antonia. Un santo solo per questo? Ma allora io sono una santa, perché neanche io la conosco. Beata Barbara! Strillò Leonella. Sono proprio argomenti adatti a una ragazza. Non dovreste neanche ricordarvi che esiste sulla terra qualcosa di simile a un uomo e che possono esserci delle persone di sesso diverso dal vostro. Sarebbe bello vedervi dare a intendere alla gente che sapete che gli uomini non hanno petto né fianchi né... L'innocenza di Antonia non avrebbe resistito a lungo alle brutali lezioni della zia, ma un mormorio generale annunciò che era arrivato il predicatore. Era un uomo alto, sottile, dai gesti precisi e la voce forte. L'abito da cappuccino metteva in risalto il suo vigore. Aveva il naso aquilino, occhi neri e sfavillanti, resi più fondi dal disegno dei sopraccigli che quasi si toccavano. La sua carnagione era bruna ma trasparente, e la soddisfazione, impressa in ogni suo lineamento, annunciava un uomo che nessun rimorso turbava. Vedendolo, Antonia si sentì sopraffare dalla gioia. La voce del monaco la incantava come il tema di una musica già nota. Parlava senza artifici, con un'eloquenza che scorreva come da una sorgente. I capelli gettavano un'ombra dolce sul suo sguardo, i suoi gesti erano sobri, misurati, ma a tratti acquistavano una singolare pienezza. Il silenzio ai suoi piedi sommergeva le teste, trascorreva tra i gruppi come un'onda sensibile. Quel che teneva inchiodati a lui gli animi era qualcosa che andava al di là delle parole, che spazzava via i precetti, lasciando lontano dietro di sé la virtù, la morale, la verità. Pareva che, con le sue parole, il monaco stracciasse un velo che oscurava lo sguardo. La sua voce, piena di echi, faceva dilagare sulla folla altre voci, nate in altre regioni, immagini minacciose di uno stato diventato paurosamente tangibile. L'inferno non era più una realtà biblica, ma qualcosa di più amaro che la disperazione o il fuoco. Thank you. Ed ecco che l'incanto si rompe. Il corpo è di nuovo immerso in un'atmosfera normale, dove i vizi hanno più spazio per distendersi, ridiventano plausibili, consueti, quasi illeciti. Il monaco ha cessato di parlare. Lascia il pulpito. Allora si alza un fragore. Si applaude come dopo la replica finale dell'attore che termina la sua tirata. Il monaco si ritirava a testa bassa, affrettando il passo come per sfuggire ai suoi ammiratori.